Con Elena Arvigo che cura la regia ed è interprete insieme a Caterina Gramaglia dello spettacolo L'imperatore della sconfitta di Jon Fabre, che sarà al Teatro Brancaccino dal 15 al 18 di febbraio qui a Roma. Allora, intanto Elena, ben ritrovata. Grazie, grazie, anch'io sono contenta di ritrovarti. Raccontiamo brevemente quest'imperatore della sconfitta? Sì, il titolo è già molto ingombrante, devo dire. Allora, l'imperatore della sconfitta. In inglese, The Emperor of Lost, quindi diciamo che ci tengo a dirlo perché non tutte, insomma, la traduzione è sempre un po' una questione interessante, importante. In questo caso va detto che l'accezione di perdita è diversa rispetto a quella di sconfitta. Uno può aver perso ma non essere sconfitto, no? Sì. Però in italiano The Emperor of Lost, cioè l'imperatore della perdita, sembrava veramente un po' Super Mario che ti aggiusta tutti i rubinetti, per cui cioè, non era possibile il grande idraulico, no? A volte le traduzioni non sono proprio possibili. Guarda, è un testo scritto nel 94 da Fabre, dedicato a un attore, a un uomo. E parla, diciamo, della possibilità, cioè di come ogni perdita, di come ogni volta che si perde ci sia proprio, sia dentro la stessa perdita già l'opportunità, la possibilità di ricominciare, no? Sì. Quindi quasi come il rappresentante per antonomasia di questa rivincita quotidiana è l'artista, in particolare l'attore sul palcoscenico, perché ogni sera in qualche modo rinnova questo patto, questa promessa con il pubblico, in qualche modo perde ogni sera, no? Cioè, ha la possibilità di cominciare, ricominciare, e diventa una riflessione chiaramente molto interessante proprio sul fallimento, cioè sul valore creativo del Sì, fallimento. sì, Cioè sì. che il fallire ti concede la possibilità di ripensare a nuovi percorsi, a nuovi obiettivi, a nuove, insomma, è molto interessante secondo me come riflessione, e anche molto poetica, perché poi alla fine, insomma, la figura per antonomasia, al di là dell'attore, è proprio il clown, no? Quindi il mago. Colui che lavora proprio sul. Il clown cade, quindi fallisce e tutti ridono, no? Sì. Cioè, infatti la figura del clown è proprio un paradosso, perché questa figura che fa ridere, che però è estremamente triste in realtà, no? È interessante. Sì. Elena, com'è partito il progetto dello spettacolo? Allora, il progetto dello spettacolo è partito diversi anni fa, diciamo, ha avuto una lunga incubazione. Nel 2009 io avevo fatto un 2010 un seminario alla Biennale di Venezia con Fabre. In realtà l'avevo cercato proprio perché avevo letto per caso questo testo e volevo incontrarlo. E mi ero iscritta a questo laboratorio della Biennale di Venezia, poi lì avevamo fatto anche un allestimento con lui della Biennale, che si chiamava Gangster and Pillaries, molto bello con lui, e gli avevo chiesto i diritti di questo testo. Gli avevo chiesto se potevo lavorarci, lui mi aveva detto sì, assolutamente, ero in contatto con la sua dramaturg Miet. Poi negli anni con l'Autof, diciamo che avevo iniziato un po' delle collaborazioni varie con gli spettacoli, non sapevo che in realtà Mino era molto amico di Fabre, perché è stato uno dei primi a portarlo in Italia, insomma, prima di andare a diciamo, nei grandi teatri Fabre andava sempre all'Autof a Milano, in Italia. E quindi mi ha detto, no, c'è qualcosa che vorresti fare, così era venuto fuori questo spettacolo. Questo spettacolo, l'anno scorso abbiamo debuttato e io avevo deciso di dividere il testo in due, in qualche modo, perché mi sembrava che fosse un po' perché sono affaticata dai monologhi, un po' perché lo spettacolo parla molto del doppio, no? Dell'altro sé. È un tema molto caro a Fabre, quello del doppio proprio, dello specchio verso il pubblico, lo specchio, no? Quindi mi sembrava interessante sdoppiarla questa voce, anche interessante per me ma anche per il pubblico, no? Sì. avere un'evocazione. E quindi l'avevo fatto con un altro attore, e adesso c'è Caterina che è cambiata perché insomma, a volte ci sono delle rotazioni, cambiano con queste produzioni gli attori, quindi siamo due donne. E anche la regia, in qualche modo avevo pensato di dividerla, però in realtà non era una cosa realistica, perché la coregia finisce sempre che uno ti fa da assistente e un altro fa la regia, perché di fatto il progetto era troppo personale perché si potesse davvero dividere. Perché soprattutto in questi testi così, dove non è che fai il compleanno di Pinter, hai capito? Che tu dici come. Sono testi in cui fondamentalmente che riescano bene o no non è così importante, è proprio la voglia di mettere in scena quell'argomento, quella cosa, e quindi l'urgenza è di chi sceglie il progetto quasi. Non sono delle commissioni in qualche modo, no? È proprio per il piacere, come si dice in inglese, for the sake of it, no? Per il piacere di farlo proprio. È una sfida impossibile. Elena, cosa apprezzi di più nell'opera di Fabre e in questo lavoro in particolare? Ma guarda, a me piace molto, quando ho studiato con lui, il suo slancio vitale. Ha una vitalità che ti possono piacere o no gli spettacoli, però la forza vitale che ha lui, prima di tutto come persona, che hanno i suoi assistenti, i suoi collaboratori, le persone che collaborano con lui, è straordinaria. Io poi sono anche andata da lui nella Factory, che è meravigliosa ad Anversa. Sono andata lì qualche giorno quando faceva le prove di Monte Olympus. È veramente una macchina del teatro, della bellezza. Infatti lui si chiama gli attori il guerriero della bellezza, cioè è tutto proprio a un livello potentissimo. Poi chiaramente magari uno dice non è il mio gusto, però è potente, è originale, cioè non è uno che dice sì è potente ma magari ha scopiazzato, no, è proprio tutta farina del suo sacco, piena di vita e forza, e poi però può piacere o no, chiaro. Cioè, e quello che di questo test mi piace proprio il fatto che sia così impossibile da fare, che sia così ingombrante il titolo, è una specie di aspettando Godot senza trama. Mi piace l'idea di quest'uomo che ha questo cuore enorme, che sarebbe l'artista, che non sa però, essendo così grande, cioè fuori dal corpo. Si chiede, ma se il cuore è fuori dal corpo, allora vuol dire che sono il primo uomo a vivere con un cuore artificiale, oppure forse non esisto. Però il mio cuore effettivamente ha vissuto più vite di quelle che io, di quel, no, del tempo che io ho vissuto. Cioè, mi piacciono tutte queste domande che poi alla fine quest'uomo cerchi le ali e che dica, forse alla fine queste ali basta immaginarle. No? Cioè, mi piace questa tensione, come dice Fabre, la tensione è sempre verso l'alto. In chiusura ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sullo spettacolo e anche sul tuo lavoro in generale? Allora, sì, vabbè, io ho la pagina Facebook Elena Arvigo che si può seguire. In questo spettacolo c'è l'evento, lo stanno seguendo le staffette, l'ufficio stampa, siamo al Brancaccino, che è il teatro, diciamo, attaccato attiguo al Brancaccio a Roma, dal 15 quindi, al 18, quindi da giovedì a domenica, da giovedì a sabato alle 20, e poi invece la domenica mi pare alle 17:30, ma non ne sono sicura della domenica dell'orario in realtà. E questo è, guarda, è un lavoro molto visionario. Quando io dico impossibile, perché certi testi, cioè, è anche proprio quando hai tanta voglia di fare qualcosa, secondo me va anche fatta poi a un certo punto. E poi non c'è tema più attuale, secondo me, ma attuale in realtà proprio del fatto di cercare di trovare nuova vitalità dai piccoli fallimenti, secondo me, non darsi per vinti, no? Secondo me una bella neanche lezione, un bel modo di approcciarsi alla vita, perché altrimenti le delusioni sono talmente tante, invece bisogna, come dire, rilanciare. E diventa interessante quante cose, quante straordinarie cose accadono quando uno dice vabbè, questo basta, adesso mi rinvento, no? Sì. Elena, su queste parole noi ci salutiamo, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. A prestissimo, grazie Federico, grazie mille, un abbraccio. Ciao.